Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Giuseppe. Ti voglio sempre bene, Giuseppe. Ma non a quel, a quel libro Gemmeris di Parenzo. Di Parenzo. Libro e Gemmeris, somiglia un Gemmeris. Te li ricordi Gemmeris? Anzi, ti dico una cosa. Quella sera, quando eri da quell'epigono di Santoro, se ci fossi stato io al posto di Stefano, ti avrei fatto la faccia così. Quell'ippopotamo là di coso, di quell'americano che viene di chi scrive libri qua, che deve scrivere? Quello che parla come olio. Ah, eravate quattro contro di Stefano, dovevi capitare il fascista Giovanni di Reggio Calabria e io cerco di fare epigoni, hai capito? Il fascismo sta imperando. Informati, vedi quello che è successo in Polonia, denunciami Gemmeris, denunciami, denunciami, non te ne ricordi Gemmeris? E mi disse: ma guarda che questo c'ha il cazzo più ciucciato d'Italia. Non mi ha stuprata. David, l'uvolumuloni. Ovo la banana! Beh, amici miei, amici miei, che notizia oggi! Questa storia di Berlusconi mi ha scaldato il cuore, questa storia di Veronica Lario, che forse, non lo so, ma si dice che dovrà restituire l'ex moglie di Berlusconi più di 40 milioni di euro. Più di 40 milioni di euro, che non sono mi i soldi. Non ti appassiona la cosa. Ah, non ti appassiona la cosa. No, non ti appassiona. Perché ti eccita, mi così eccita tanto da morire. La vicenda basta familiare con questa come dittatura quella femminile, questa dittatura nei divorzi, dittatura nei divorzi in cui la donna è sempre aiutata, in cui la donna ottiene sempre dei favori. Ma vi rendete conto che questa beh, signora in genere, qui, essendo la donna quella che ha l'affidamento dei figli, ma dai, non essere, ma che sei l'avvocato della Lario? È evidente. Che sei l'avvocato della Lario? No, nel caso della Lario, io sto se con la sentenza dei giudici, ma mi pare tu, anche ai quali, ragazzi, perché, insomma, questa qua ha 300 milioni di patrimonio, sì, 300 milioni di patrimonio, e nonostante questo, per fortuna i giudici hanno posto rimedio a questa situazione vergognosa, 300 milioni di patrimonio, una liquidità di 16 milioni di euro la signora Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi, e pretendeva 1.400.000 al mese da Berlusca. Ora, per carità, i soldi per Berlusca probabilmente queste cifre sono piccole, o forse no, non lo so. Comunque, quando uno deve cacciare i soldi è sempre una brutta cosa, non è, è bello quando tu cacci. È tutto, ma che in proporzione, c'entra in proporzione, proporzione, ragazzi, 1.400.000 per i suoi figli, poi mica per lei. Ma è per che i suoi figli? Ma che dici, per lei? Ma i suoi figli sono maggiorenni, non dire stronzate. Per lei, ma anche il patrimonio comunque. Senti, lei lo capite, non è che rimarrà nelle sue mani, non andrà, fare i suoi tre figli, non eh? Fare il leguleio, no, ma è molto semplice il quando qui Dio si non gode voglia... qui si gode, questo è tutto, qui si gode. Qui non si c'è gode, da. Qui, ma non per Berlusca, per carità, non me ne frega assolutamente nulla. Ecco, però in questo caso è un bel ariete, no? È un bel apripista, zio Berlusconi. Ma per più cosa? Di tanto non so, potete rompere il cazzo, care donne. Più di tanto non potete rompere il cazzo. Questo è il punto fondamentale. Questo è il messaggio che arriva forte, forte, vigoroso. Più di tanto non rompete i coglioni. Se hai soldi, patrimonio, immobili, società, gioielli, non puoi pure prendere 1.400.000 al mese. In proporzione, non puoi, ne so, avere da un poveraccio 1.000-1.500 euro quando magari questo certo ne guadagna. Dai, su, ma di questo che parliamo? Certo. Dai. Deve essere fatto tutto in proporzione, all'attacco, nel rispetto della dignità all'attacco delle persone. Non rompete troppi coglioni, non rompete troppo il cazzo, dai. c'è tensione, tradimento. No, no, in questo caso non c'è nessuna tensione, nessun tradimento, assolutamente. No, no, c'è tensione. Oh, a proposito della questione delle molestie, mentre giunge la notizia che il signor Totò Riina, e anche qui la notizia un po' il cuore ce lo scalda, caro Parenzo, per carità, quando un uomo muore non è mai bello, però pare che sia in fin di vita, pare che sia in fin di vita il signor Totò Riina, il capo dei capi, certamente sì, non siamo dispiaciuti qui, non versiamo lacrime, ecco. Come ma non è questione di dispiacenza. Non versiamo lacrime, dai, non versiamo lacrime. Peccato che non possa raccontare ormai da tempo, non possa più raccontare altri dettagli, altre cose. Comunque, non, come dire, non piangiamo per l'eventuale morte. No, non te ne non frega niente a te. No, ma anche non è che uno deve piangere. Se io sono contento perché era in galera al 41 bis del, cioè, capo dei capi. Cioè, non sei contento se muore il signor Totò Riina? No, perché non è che vengono risarcite le vittime, perché cos'è la vendetta della morte? Sono felice che la giustizia ha trionfato e l'ha sbattuto in galera quel ho capito, quel ma la morte del capo dei capi non ti dà perché dovrei essere felice per la morte? Sono felice per la galera di un crimine, che un criminale come quello sia in galera. Ma perché devo essere felice per una malattia terribile, per una morte? Innanzitutto perché paghiamo del denaro per mantenerlo, ecco, diciamo, il populismo, no? Ecco, paghiamo del denaro. Guarda che nei sistemi democratici funziona così. Sì, ma quello nelle dittature sì, però, vengono Totò Riina, eliminati anche per risparmiare. Sì, ma non è un, no? Non è un detenuto semplice come gli altri. Signor Totò Riina, che vuol dire? Allora, scusa, è uno che rimettiamo la pena di morte che costa meno per lo Stato. Cementato, qualcuno lo dice? No, infatti sto dicendo semplicemente che non mi rammarico, non mi rammarico della morte del signor Totò Riina. Quando avverrà, pare che sia in fin di vita, non lo so. Allora, dicevo, la questione delle molestie che domina, no? Domina dappertutto, con gente che dice la sua, sì, certo. Per alcuni non sono molestie, per altri sì, eccetera, eccetera. Ho sentito delle cose incredibili durante una trasmissione che si chiama L'aria che tira, che un tempo fu condotta anche dal qui presente David Parenzo. Per una breve parentesi, per una sostituzione, parentesi, sostituto una sostituzione. Procuratore della Repubblica, come si dice, no? C'è il procuratore, c'è sì. Il sostituto procuratore. Allora, la signora in questione... Che è successo, caro? Perché oggi non ho, la non signora ho osservato in questione, il televisore. La signora in questione si chiama Maria Rita Parsi. Maria sì, Rita Parsi, grandissima psicologa, psicoterapeuta, la mia carissima amica, dimmi tutto. Sì, come al solito, naturalmente. No, ma la no, conosco come al solito, io. No. Se tu mi dici, ad esempio, un nome qualunque, che so io, Di Maio, non ti posso dire che è un carissimo amico, ad esempio. Se mi dici un nome così, no? Allora, se mi dici il nome di un signore di Forza Nuova, non ti posso dire che è un carissimo amico, tutt'altro. Senti, mi hai questa... detto la signora sì. Parsi, ti dico carissima senti amica. Senti questa cosa qui. Le donne non passano tutto il tempo a guardare il corpo degli uomini, cioè secondo lei siamo noi ossessionati perché passiamo sì. tutto il tempo a guardare il corpo delle donne. Questo è vero. Ma che stronzata è, ma dai, questo è una vero. Puttanata. Pieno di maiale in giro, pieno di maiale. Ma perché le donne di cosa guardano, scusa? Cosa guardano maiale. Le donne? Adesso pieno di maiale donne in ogni giro. Volta ma chi guardano. Sei diventato? Pieno di maiale. Pieno di maiale. Pieno ma che sei, Alba Parietti? Pieno chi di maiale. Sei? Cioè no, sei diventato no. un femminiello, se vai un femminiello sei diventato. Che femminiello? Se vai anch'io ogni tanto mi volto, non è che mi volto per strada a vedere il sedere di una, cioè se una passa per strada. Non è che la prima cosa che faccio è vederle il sedere. Cioè, invece è pieno di questi uomini maiali che appena passa uno subito. Guardano, con quello sguardo. Comunque sentiamo che dice. Se noi non andiamo alla radice del perché gli uomini sono così attratti dai corpi delle donne, non risolveremo mai il problema. Il corpo delle donne, attenzione, le donne non passano la vita guardando i corpi degli uomini, dicendo oh che bel pene, oh, che belle spalle, oh che bel sedere. Gli uomini passano la vita con l'idea del corpo delle donne, perché loro quel corpo non ce l'hanno. Ma siamo alla follia, alla se follia non mi pare pura, una cosa così cosa? Sbagliata. Mi pare una riflessione giusta. Cioè, ma l'uomo è di per sé più animale nel guardare, nel desiderare. Ma non è una follia, serio? Ma le donne ma parlano la mattina cioè, alla sera. Diciamo. E dai, non mi fare dire certe cose che sono 18:43. De che parlano le donne dalla mattina alla sera? Ma non lo so. I piselli, te lo dico io. Tutto il giorno. Lo dico in maniera moderata. Tutto il giorno. I piselli. Tutto il amico giorno, mio, di piselli spesso, tutto di misure, di come scopa quello, come scopa quell'altro che c'è tutto così, giorno. Quell'altro ogni che c'ha il pisello colà. Non con la stessa ossessione con cui lo fanno gli uomini. Quell'altro che c'ha la pancia, non ma non scopa con bene. La stessa ossessione peggio. Con cui lo fanno gli uomini, peggio. Secondo me. Molto peggio. Molto peggio, molto di più, molto peggio, amico mio, molto peggio. Ma dove tu vivete? Dici. In che ambienti vivete? Chi frequentate? È così. Parlano da mattina alla sera di queste cose qua, misure, cose, la gamba colà, la gamba così, me l'ha messo di qui, me l'ha messo di là, questo non scopa bene, questo scopa male, è tutto così. Hanno l'ossessione. Ho ascoltato un po' troppo Ruggero dei Timidi, secondo ma quale me, che Ruggero su questo dei ha scritto timidi? Una memorabile canzone. Dai. Sono stati 9 mesi, 8 mesi nel corpo della madre e quando escono fuori, le donne crescendo quel corpo ce l'hanno, hanno il seno che allatta, il grembo che accoglie, il paradiso terrestre che hanno perduto. I maschi no, la fantasia dei maschi è tornare ai corpi delle donne, essere riaccolti, reinfetati, riamati. Allora, queste sono puttanate. Una bellissima analisi, sì, carità, di una psichiatra molto famosa, sì, molto brava, studiosa, molto in gamba. Invece, una bella analisi. Non è che se uno è uno studioso, allora ha ragione, avrà letto per qualche libro più di noi sulla psichiatria, sul rapporto uomo-donna, ha letto qualcosa in più di me, sicuro lo avrà letto. È una che conosco anche, Maria Rita Parsi. Ma se uno dice delle puttanate, ma perché ti puoi sulla chiamare, base di che cosa possiamo dire? Avrà letto un po' di letteratura scientifica sui rapporti uomo-donna, no? Oppure ha ascoltato solo Ruggero dei Timidi. Vabbè, ha ragione lei, ha ragione. Pare che abbia fatto delle considerazioni anche profonde l'esperienza conta, l'esperienza adesso conta molto. È chiaro di più che chiamerà libri. Un camionista e dirà: mia moglie alla parla sempre con lo scroto in mano, e chiamerà sicuramente qualcuno di questi qui che però ha letto qualche libro in meno della signora Parsi o della dottoressa Schelotto. Ma sei veramente libri servono per capire, non è che uno può parlare di tutto. Io di quelle cose io non posso parlare perché non ho letto abbastanza di psichiatria, di psicologia, di rapporti tra uomo e donna, no? Mi pare che lei ne sappia qualcosa in più del mito, signor Dabari. Tu hai il mito degli studiosi, la del cosa sapore, incredibile, del sapere, ma non sì, è certo. Quello, la maggior parte sono delle capre, perché peggio se no di noi. Uno vale uno, ma uno vale uno un cazzo. Non è che il mio parere vale quanto quello di Rubbia, ma non ritorno, è vero, cioè, assolutamente. Sulla scienza magari no, su quelle cose sulla scienza, qui parliamo di scienza, scienza, parliamo di medicina, parliamo di psichiatria, aspetta. Di psicologia. È tornato Pasolini. Ecco, Fannuna dice concordo con Cruciani, altro salame, amante della gnocca fino all'inverosimile, fermo, l'amico Fannuna. Fermo, sono Scarbi, in dissenso con te, amico mio. È tornato Pasolini, aspetta. Indico un mondo, che è il mondo del cinema. Cito dei nomi che voglio vengano meditati dalla Innocenzi. Pasolini, che aveva attori che erano presso di lui per la carriera e che hanno avuto un'intesa sessuale con lui. Pasolini. Che lo avrebbe citato, lo sapevo. Vai, Sgarbi contro Innocenzi. Alain Delon e Helmut Berger hanno subito una pressione psicologica accettata su cui non capisco su cosa non sia d'accordo la Innocenzi. Sgarbi, non è un sono dato d'accordo che noi possiamo accettare i rapporti il fatto che ci siano delle donne che Pasolini, vanno a fare dei sto parlando, e sto parlando, accettare delle molestie. Sto parlando. La capra sta parlare. Dando dell'energia allora, a Sgarbi. Il punto è questo. Il caso di Pasolini, non parlare, io non ti ho interrotto. Asi Argento che viene violata sicuramente, poi però va sul red carpet e abbraccia il suo violentatore. L'ha questo spiegato non ha fatto Asi Argento Miliana questa Trevisan. Cosa non ha questa cosa l'ha spiegata. Allora, Asi Argento era voglio che tu rispetti quello che dico, voglio che tu rispetti e non rompe i coglioni. Quando è che chiudete cornuti? La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. No right line. Però dove andare al Ministero della Pubblica Istruzione? Ma vaffanculo, per piacere, vaffanculo! Ma vaffanculo, la ciambata in mano e ti cacciano fuori subito. Al ministero voglio denunciare l'insegnante perché Mussolini, ma per piacere, ditemi dove è la scuola che porta mio figlio. Porta mio figlio da quell'insegnante, subito, e trasferisco. Parenzo, scusa, vaffanculo, Parenzo, vuoi sapere dove lavoro, Parenzo? Sì, te lo dico, vaffanculo, Parenzo. Tic, tac. Tac, il tempo passa, David, venerdì si avvicina e poi voglio vedere come insegna quella maldestra professoressa. Stanali tutti, non avere pietà di nessuno. Stanali, David, stanali. Siete patetici tic, patetici. Tac, hai presente il coccodrillo di Capitan Uncino, di Peter Pan? Tic tac, tic tac, tic tac. passano i minuti, passano i secondi, passano le ore, passano i giorni e il day after si avvicina, cioè venerdì, in cui la signora a te, la signora, chiedo scusa se ho usato la parola signora, questa qua ha tempo di telefonare, di chiedere, poi può continuare a insultarmi quanto le pare, non c'è problema per quello, deve solo chiedere scusa per quelle cose che ha detto, che insegna il fascismo. Ecco, fatto questo, io non mi reco al ministero, a tempo fino a venerdì. Non insegna il fascismo, ha manifestato le proprie idee. Nessuno tocchi Fiorella. Nessuno tocchi Fiorella. Nessuno la tocca. Avrà semplicemente un'ispezione che verificherà le sue modalità di insegnamento. Allora, è tutto nella legge, non c'è nulla di fare l'ispettore, ma che sei? Non io. Ma non dai, io. Su, deciderà liberamente il ministero se mandarli o meno. Un burocrate, io, no, dai. Deciderà te. Io sono rispettoso della legge e, e chi deve decidere. Deciderà il ministero se inviare gli ispettori. Io do tempo fino a venerdì. Se entro venerdì lei non chiede scusa, io informo il ministero di questa cosa e il ministero autonomamente deciderà se mandare gli ispettori o no. Allora, scontro tra Sallusti, direttore del giornale, e l'ex modella showgirl Trevisan, che aveva accusato Tornatore praticamente di essere saltata addosso anni fa. Mi pare pieno di troia il mondo, ma è una cosa normale, credo, no? Cioè, direttore, come la considera questa Trevisan lei? Non ho capito. Guardi, non so come si chiama, sicuramente è una troia, ma uso un termine normale, colloquiale, che si usa costantemente in qualunque posto. Io ho scritto anche sul giornale, parlano le troie. Abbiamo intervistato, loro hanno detto, dicono stupro, in realtà semplicemente si è spogliato completamente nudo, le ha tenute bloccate a un muro chiudendo la porta di una camera, e a queste lo chiamano stupro. Ma io, secondo me, troia, è normale, chi vuole fare spettacolo è pieno di troie, tutto il mondo è spettacolo, la televisione, i giornali, pieno di troie, è normale, naturalmente. Che Tornatore alcuni anni fa sia stato molto gentile con la signora che è in studio, no, e accompagnandolo all'uscita l'abbia abbracciata, beh, insomma, è per la serie, chi se ne frega. Ma lei come si permette? È una zona grigia dove non si capisce più. Ma lei come si permette? Io sono una persona e lei mi deve trattare. Lei ha appena detto, interrogata appena detto, ma cos'è successo con Tornatore? Che è stato molto carino con me, e quando mi ha accompagnato all'uscita ha lasciato, dice, mi ha abbracciato. È stato molto carino con me. Io non sto E chi se ne frega se Tornatore l'ha abbracciata, insomma. Ripetilo, perché così si capisce bene. Allora, insomma, la signora ha fatto, la testimonianza dice. Allora, mi ha fatto. La testimonianza dice. È stato un abuso di potere. Io sono andata a fare. Ma cos'è un abuso di potere, signora? Ma me lo spieghi lei cos'è un abuso di potere? Io lo devo spiegare io. No, io lo chiedo a lei. È lei che dice cos'è un abuso di potere. È un abuso. Dice che l'ha schiacciata contro la porta e l'ha baciata, ripete ma la stessa cosa. Ma è normale, voleva aprire la porta, no? Ragazzi, si fa così. Però, oggettivamente adesso una che poi fa il giro delle televisioni, eccetera, per raccontare tutta la stessa cosa, mi pare una puttanata, mi pare una puttanata. L'ha schiacciato contro la porta, l'ha baciata, non mi sembra che sia rimasta traumatizzata da questa cosa, la signora Trevisano, però per carità, assolutamente. Alziamo le mani. Alberto da Foggia, vai. Pronto? Alberto. No, la cosa incredibile è che, un attimo solo Alberto, che la moglie di Brizzi ha pubblicato questa lettera sul Corriere, sì, no? Molto bella, allora, carità, sì, molto in cui bella. Parla di tribunale mediatico, che lei e la figlia sono barricati in casa. E di violenza sulle donne. Sì, perché dice che lei e la figlia sono barricati in casa, esatto, con i fotografi, esatto, fuori, eccetera, con i cronisti fuori. Ora, per carità, ecco, tutto comprensibile. Però, amica mia Zanella, ci siamo anche viste a Vespa una volta, devi capire che il mondo, lo sai benissimo, il mondo dello showbiz è un po' così. Cioè, è un mondo cinico, spietato. Cioè, i giornalisti, i media, non è che servono solamente per le paillette, quando ti devono lisciare il pelo, quando devono fare le marchette o le presentazioni dei libri o le presentazioni dei film. Sì, però chi se ne frega. Aspetta, di assediare la casa di questa signora con la bimba. È normale, in America succede di peggio. Nel mondo dello showbiz è così. Si può dire che non è bello, però. Ma io non lo farei, so, ma è così. Non è bello, porta. Il mondo dello showbiz prevede una cosa, che tu puoi essere messo sull'altare. Ma c'è chi lo fa e chi non lo fa. Oddio, ma è il mondo dello showbiz, non è un'impiegata di banca questa qua. Cioè, tu sei messo sull'altare e poi poi ti pigliano e ti fanno un mazzo così. È così il mondo dello showbiz. Sì, lo possono fare il mazzo così al signor Brizzi. Ma è uguale, anche lei non è che fa la lavandaglia. Scusami, con tutto rispetto. Però della lì lavandaglia. C'è anche da tutelare una madre e una bambina di un anno e mezzo. D'accordo, siamo d'accordo. Il problema è un altro. Sì, ma ci pensi la polizia per quello. La cosa fondamentale è una: il mondo dello showbiz non è solamente. Ci vorrebbe un po' di autocontrollo anche da parte nostra. Di chi non è solamente gli onori il mondo dello showbiz. Il mondo dello showbiz è fatto di cinismo puro, di schifezze, di gente che ti salta addosso e ti dà una pugnalata. Non è che ti puoi aspettare, dico, c'ho il mondo dello showbiz, però sto nella mia nuvola, sto lì e non mi tocca nessuno. No, beh, però mio, c'è chi lo fa e chi non lo fa. Alberto, chi accetta di farlo, Alberto, e chi non lo fa invece. Ma no. Buonasera a tutti, io una persona. Sì, chi allora? Chi? Vabbè, sì. Parenzo, perché interrompe sempre. Non ti preoccupare, vai avanti, che cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire, Alberto, dimmi. Cosa voglio dire? Il fatto della Parietti di ieri, no? La Parietti ieri, ha detto un sacco di cazzate. Poi gli hai chiesto, giustamente, dice fai nome e cognome. No, non lo faccio nome e cognome, altrimenti non mi fanno lavorare più. Se l'avesse detto un uomo, quel fatto là, cascava il mondo, l'uomo così, ha detto la donna, tutto a posto. Sì, no, ma su questo hai ragione, fermo là, fermo. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Scusa Parenzo, ma adesso per insegnare cosa bisogna avere? La testa del Partito Comunista, del PD, dell'MPD, e te lo dice uno di sinistra, E questa qua sarebbe la democrazia che vuoi te, ma vaffanculo, guarda, non dire più nemmeno che sei di sinistra. Allora Parenzo, sappi che io sto per andare a denunciare la mia insegnante di storia che negli anni 80 non ci parlò delle foibe, occultando evidentemente un episodio importante e fondamentale nella storia d'Italia, probabilmente per la sua ideologia comunista. Ma vaffanculo, va! Come combatte la maestra! Parenzo, quella ti vuol fare l'occhio nero. Ah no, ce l'hai già l'occhio nero. Quello ti vuol dare un pugno in testa che t'abbassa di mezzo metro. Ah no, sei già basso mezzo metro. Parenzo, vaffanculo! Parenzo, ti voglio carico! Sei un grande Parenzo, sei proprio un grande sei. Falla butta fuori a Fiorella, li mortacci su a de tutti i fascisti, mortacci vostri. E torniamo su Fiorella, il caso della settimana, la professoressa apertamente di destra, anzi fascista, che però a scuola non insegna il fascismo, non insegna nulla di tutto ciò, e che Parenzo vorrebbe far processare dal ministero. Risentiamo tutto. No, non vai. È esattamente così. Sì, è così. Io riassumo come al solito per il volgo, vai. Fiorella, da modo di dire stupido. Fiorella. Sì, ci sono, pronto. Dimmi Fiorella, dimmi. Io sono un insegnante destroide. Sì. Destroide, fascista, diciamo. Ho apprezzato tutto ciò che di buono il Duce ha portato. Vabbè, ma alla tu sei, me lo ricordo. In che scuola insegna questa? Quale ma scuola? Ma che cosa te ne frega? Io non devo dire a te dove insegno, perché mi interessa, voglio segnalarlo al ministro te. Fedeli. Ma anche scuola insegna? Ma io ti segnalo un manicomio. Nessuna Carogna. Come si chiama? Io, fatti i cazzi. Come si chiama la scuola sua? Come si chiama? Me lo dica. No, me lo dica, professoressa. Mondrini, del culo. Mondrini, ministro Fedeli, tu lui. Ministro ma Fedeli. Tu è lui, il ministro Fedeli. E beh, tu lei insegna a scuola? Te. Hai mandato a fanculo il ministro. Bello, come parla bene. A questo punto io esigo di avere il nome della sua scuola. Io esigo di avere il nome della sua scuola. Io voglio, voglio segnalare al ministro dove insegna lei. Ma segnala tua madre. Ma che male c'è, è quella mignotta di tua moglie. No, Fiorella. Anche. Hai capito? Ma hai finito di lavorare, brutta stronza di merda. Capito? Non ti permette, professoressa di merda, dei miei coglioni. Libertà, libertà, libertà. Il crescendo, ma non c'è libertà per chi insegna cose distorte. Ma vedi poi il crescendo rossiniano. Il crescendo rossiniano mette bene in evidenza che io all'inizio non ero mal disposto. Poi, in seguito alle sue ingiurie e alle sue reiterate affermazioni in merito al rivendicare l'appartenenza al fascismo e insegnare il fascismo, mi sono permesso di alzare i toni, e di questo posso chiedere scusa, non a lei ma agli ascoltatori. E hanno apprezzato. A tempo fino a venerdì per chiedere scusa. Dopodiché io segnalo, questo è il punto politico, segnalo al ministero che esiste una professoressa che rivendica di essere fascista, certo. E chiedo al ministero di mandare gli ispettori. Qualora il ministero ritenesse la mia segnalazione inutile, io mi attengo a quello che dice il ministero. Allora, qualcuno si chiede se morirà prima Totò Riina o Marilyn Manson. Una bella lotta, questo diciamo. Perché Marilyn Manson deve morire intanto questo? Charles Manson, sì, Marilyn Manson, sono Charles Manson, Marilyn Manson non c'entra infatti Charles non Manson, Charles Manson, no, quello dei nani. Sì, no, Charles Manson, sì, Charles. Oddio, non è che me. Sì, non è che Marilyn Manson faccia una vita salubre, diciamo, anche lei, o lui, non so. No, no, certo, che c'è. Maschio o femmina, non ne ho. Ovviamente idea. Charles non Manson, me ne frega niente. Charles Manson. Allora, la Parietti ieri ha tirato fuori delle cose incredibili. Per esempio, ha detto a un certo punto che non posso fare i nomi di chi mi ha danneggiato la carriera provandoci e facendo delle offerte sessuali che lei ha rifiutato, perché abbiamo tutti la mentalità mafiosa e non posso permettermi di fare nomi. Senti, in fondo siamo proprio mafiosi nella mentalità e non c'è nessuna voglia di avere i nomi. Io spero che questa cosa non cambi il passato, perché non lo può cambiare, ma quantomeno cambi il futuro. Beh, oddio, se tu non fai, se nemmeno tu fai i nomi, però, cioè, dice... Ma perché io dovrei fare i nomi? Per non lavorare mai più, per essere messa al bando tutta la vita, per farti un regalo a te che domani ti fai il che c'entra regalo a me? Ma regalo a me che c'entra regalo a me? Ma perché non li fai anche tu i nomi? Ma io mica sono stato molestato, né ho molestato qualcuno. Ma siccome fai, dici che gli uomini devono cambiare, che questo andazzo va cambiato, e stai dicendo che qualcuno ti ha messo in condizione di sentirti mortificata, fai i nomi di chi ti ha mortificato. No, non si possono fare, dici, non si possono fare, vabbè. Perché purtroppo non me lo posso permettere. Bah, non me lo posso permettere, bah. Allora, Lunella da Pisa, vai, Lunella. Sì, buonasera. Dimmi. Io volevo dire la prima cosa che avete detto in partenza, in trasmissione. Cioè, cosa, dimmi? Che le donne... Guardano tutto il giorno, pensano a pisello. No, aspetta, calma. Allora, all'inizio della trasmissione abbiamo mandato in onda quello che ha detto Maria Rita Parsi, che ha detto che gli uomini hanno la fissazione di guardare continuamente il corpo delle donne. Ed è vero. Ma non è, sì, sarà anche vero, ma non è un dramma e non è assolutamente un problema. E invece può diventare io, patologico. Ma sì, vabbè, d'accordo. Ma io ho detto semplicemente un'altra cosa. Ho detto, guardate, che è esattamente il contrario. O comunque, se uno vuole esasperare questo concetto, è esattamente lo opposto, cioè le donne parlano sempre di uomini, soprattutto quando sono insieme, parlano del corpo degli uomini, delle misure, di come quello scopa, di come non scopa, eccetera, eccetera. Ma è normale, Lunella, o no? Beh, questo sì. No. Ma non è vero. Non è vero. Siamo male informati, allora, cioè abbiamo... Siamo male informati. Tu non guardi i piselli degli uomini, non fai discussioni con le tue amiche sulle misure, eccetera. Quello fa così, quello fa colà. No, non fai queste discussioni. No, io guardo con il mio marito e basta. E vabbè, se stai solo con tuo marito, mica è colpa mia, però. Scusami, se conosci. Non è colpa mia se tutte le zoccole vanno a fare i piselli. Beh, non ho capito. Adesso le zoccole. Non è che quelle che guardano i piselli sono zoccole. Scusa, perché sono zoccole? Ma perché guardassero tu a casa i piselli? Ma non ho capito, Lunella, se una invece vuole stare con più uomini ed è curiosa dicono... se guarda le misure, per me è una puttana, scusate. Ma perché è una puttana? Non ho capito. Signora Lunella, che argomenta anche, perché... entra nel merito. Perché no. Se una si guarda occupa... Che è una trasmissione strana sta qua, è un perché paese anche molto strano. Se una si occupa, scusami, se una donna, Lunella, è interessata alle misure del pisello di un uomo... Capite, ascoltate, lui che discute con sta Lunella. Certo, assolutamente. Perché la consideri una zoccola, una puttana? Scusami. perché ho una parente che per me è una puttana, scusate. Hai una parente che è una puttana, non ho capito. Anche no, questo, per me. Non ho capito, hai una parente, che parente hai che è una puttana? Faccio anche il nome ora. Ma che vuol dire? Ma da lei signora ormai, guardi, mi pare che no. Ma perché la situazione perché, in famiglia non mi pare delle migliori, però... Perché la tua parente è una puttana? La consideri una puttana? C'è tensione, tradimento. Non la considera. No, non ho capito, che fa questa tua parente? Cosa fa? Cosa fa? Che ne so, dimmelo tu Lunella, io non lo so. Mi piacciono i piselli. Mi piacciono i piselli, a questo parente. C'è cioè, tensione, tradimento. Si può sapere che ruolo ha nella tua famiglia questa parente? Cioè, che cos'è? Una cugina? La moglie? Sarà la sorella del marito. La sorella del marito, che è lei, la sorella del marito? Diciamo una parente da parte di mamma, va, non voglio fare nomi. Una tua parente da parte di mamma pensa sempre ai cazzi, giusto? Pensa quanto è felice la signora che sta ascoltando la trasmissione e riconosce la voce della... Ma pensa veramente, li guarda anche. Li guarda anche, in che senso appunto, come avviene tutto ciò? Cioè è sposata, è fidanzata o no? No, era sposata. Era sposata. Però diciamo guarda spesso ai piselli, cioè è molto attratta dal genere, da questo oggetto. Molto, sì. E perché la consideri una puttana? Per me una cherubina di famiglia è una puttana. Quello non ho capito la prima parte. Per te? Ah, una perché rovina le famiglie. Una cherubina di famiglia è una puttana. Ma perché rovina le famiglie questa qua? Che ha fatto? Certo. Cioè, che ha fatto? Sì, anche. Sì, sì, si scopava, scopava gli uomini sposati? Certo. E adesso non più, è finito? No, spero di no. Le famiglie. Cioè tu dici sarebbe bello, appello alla signora all'ascolto, se ha riconosciuto la voce chiami, così facciamo un forum, no? Un piccolo dibattito tra signore in famiglia familiare, ormai, no? Diciamo, piccolo forum familiare. Esatto, bravo. Però bravo. Amica mia, io ti invito a riconsiderare questo tuo giudizio strana, molto pesante. Cioè questa tua parente da parte di madre, da parte di mamma è semplicemente una che c'ha voglia di scopare, punto e basta, cioè, questo sicuro. Che poi lo faccia ed è una cosa bella, la positiva, è una cosa molto questo. È una cosa vitale, una cosa molto che dà grande energia nella vita. Tu invece che stai solo con tuo marito probabilmente scopi poco, la consideri una puttana. La pazza è lei, capito? Non è così, proprio per nulla. Mi sembra proprio di sì, cara Nunella. Sicuramente scopi poco, non c'è dubbio, lo farai una volta al mese. Quella invece scopa più spesso, qual è il problema? Il problema è che se non capite un cazzo voi e non c'è colpa nessuno, Noi, signora mia, perché se la vede anche con me? Io cosa vuole da me? La signora Lunella, ma che c'entriamo noi? Ma che paese? Sì, anche questo però, signora mia, è vero. Scusa. Con le donne che qua stanno tutto il giorno a parlare di piselli. Scusami Lunella, ma perché se la prende con noi su questo? Ci avete un casino in famiglia, signora mia. Ma su questo Cruciani c'ha ragione però. Io lo attacco sempre per le discussioni che lui ci porta ad avere. Ma dopodiché ha chiamato lei, dice che in famiglia sua c'è la troia, ci racconta che questa qui è una spacca famiglie e rompe le scatole a noi. Poi scusi, noi, signora mia, c'ha ragione Cruciani qua però scusi, la zoccola ce la vedevo in famiglia, ce la vede la zoccola, mica noi, mica io. scusi. Questo io manco, va bene, io manco la considero zoccola poi questa qua, tra l'altro abbassata, chiude e si arrabbia perché scusa chiama lei, ma io fermola, non lo so, fermola. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. In PIMCO cerchiamo continuamente, in qualunque condizione di mercato, le migliori opportunità per i nostri clienti. Non abbiamo inventato l'obbligazionario, ma lo reinventiamo ogni giorno. PIMCO. Prima dell'adesione, leggere il prospetto e il KID. Quando sei sulla tua Jaguar, non devi pensare ad altro che al puro piacere di guida. Per questo abbiamo creato Jaguar Jump, il primo leasing Jaguar anche per i privati, con furto incendio, RCA, manutenzione, garanzia e assistenza stradale, per 3 anni inclusi. Scopri Jaguar F-Pace con Jaguar Jump a €495 al mese. Tanfisso 1,95, tag 3,92, salva approvazione della banca fino al 30 novembre 2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi presso le concessionarie Jaguar aderenti all'iniziativa. Nel 2020 ognuno di noi produrrà 90 megabyte di dati al minuto. Il 90% dei dati complessivi sono stati creati negli ultimi 2 anni. Capirne il valore e utilizzarli nel business è possibile con IBM Cloud. Costruito sui dati e su potenti funzionalità cognitive, IBM Cloud è sicuro, flessibile e basato su open standard e su 58 data center in Italia e nel mondo. IBM Cloud, a prova di privacy, di normative e di futuro. IBM.biz/soluzioni cloud. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Volkswagen presenta Nuova Polo, un'auto così evoluta che puoi portarla ovunque, in città, in autostrada, ma anche in ufficio, a casa, in bagno. Come in bagno? Sì, anche in bagno, perché è il Volkswagen Connect di serie, l'app che ti permette di avere i dati della tua auto a portata di smartphone. Fantastico! Non è fantastico, è realtà. Scoprila sabato 18 e domenica 19, solo a novembre, tua da 129 euro al mese, TAN 3,99, TAE 5,90, info su volkswagen.it. Nuova Polo, abituatevi al futuro. La Zanzara. Non ti è bastato il comunismo, non hai visto quanti misfatti che ha combinato, quanta gente è morta, quante centinaia di milioni col comunismo, e ancora su Gemmeris va a parlare di comunismo. Te li ricordi i Gremlins? Sì, ce li ricordiamo tutti, certo. Dopo aver sentito la Parietti e femmine mega proprio rotto i coglioni, de più de Parenzo, tempo 6 mesi e comincerà a lamentarsi che gli uomini non è tromba pi. Comunque è meglio tutto a vantaggio delle puttane, perché se fa trombare bisogna firmare una liberatoria, ragazzi, siamo messi mai. E comunque viva il peo! I dialetti italiani, caro David, sono qualcosa di strepitoso, diciamo la verità. Veneto. Sono qualcosa di strepitoso. Diciamo viva che questo Veneto avvalora la tesi. Sì, ma diciamo che questo Veneto avvalora la tesi storica di Oliviero Toscani, che non voglio ripetere. Dell'ubriacone, dici? Dell'ubriacone. La ricorda. Questo, allora, questo ragazzi, signore qui la ricorda. Facciamo questo bel ritratto di quali erano i privilegi della signora Lario, tanto per capire questa sentenza meravigliosa di oggi, che fa trionfare finalmente l'uomo nei confronti di una donna avida, di una donna che pretende la follia, anche se in questo caso si tratta di Berlusconi, che ha un sacco di soldi. Lunghe crociere ai Caraibi per almeno 4-5 settimane all'anno, estetiste, parrucchiere e personal trainer a domicilio, la frequentazione per almeno 5 settimane all'anno di Villa Certosa e Porto Rotondo. Dopodiché, durante il matrimonio hanno sempre prestato servizio domestico presso Villa Belvedere di Macherio almeno una dozzina di persone. I costi relativi alla gestione, al personale, alla vigilanza, alla sicurezza sono sempre stati sostenuti in parte dal dottor Berlusconi personalmente e in parte attraverso società a lui riconducibili, eccetera eccetera. Poi ancora, negli ultimi 4 anni la Lario è andata in vacanza alle Galapagos, Polinesia, Figi, Nuova Zelanda, Cambogia, Laos, Thailandia, Brasile, Siria, Parigi, Praga, New York, Londra, Svizzera, Venezia, Roma, tutto coperto da Silvio e delle sue società. La signora Veronica era solita utilizzare aerei ed elicotteri della società del marito per i propri spostamenti internazionali, oltre a voli di linea nelle classi massime, ovviamente. Ragazzi miei, per fortuna tutto questo è crollato e bisogna anche restituire il maltolto, 43 milioni la Corte d'Appello. Aveva una liquidità per 16 milioni, un patrimonio da 300 milioni e voleva ancora i soldi, vergogna. E comunque, viva il peo! Vabbè, questo sempre, amico mio, eccolo. Questo fisso, questo di fisso. Allora, nei giorni scorsi, cosa è accaduto? Nei giorni scorsi si è rifatto vivo, ti ricordi quello Stefano Torre che era candidato a Piacenza? Quel signore particolare che proponeva addirittura la Tour Eiffel a Piacenza. Sì, eccetera. Come no, che veste anche in modo molto molto strambo, mi pare. Sì, no? Noi avevamo promesso a questo signor Torre. Si ha fatto un video contro aspetta, di noi. Avevamo promesso, nel caso in cui avesse preso più di 500 voti, ne prese credo 1.800, o una cena che non abbiamo ancora. No, io non ho promesso. Io quasi ho promesso nulla, che non abbiamo ancora, come dire, non siamo ancora stati pronti ad adempiere a quella promessa, però non avevamo dato una scadenza temporale. Dunque, caro Torre, non ti agitare, tu e i tuoi fan, Torre, perché non c'era scadenza temporale e sicuramente noi pagheremo. Sicuramente noi pagheremo, almeno io pagherò questa cena senza problema. No, Torre, posso dare un piccolo contributo di un euro anch'io, ovviamente. Torre, Torre, non c'è bisogno. Mi ha promesso una cena che non mi ha mai pagato, il che mi duole dirlo, ma lo rende un laido mentitore, il che li rende dei bugiardi nella 8ª bolgia del 10° cerchio dell'inferno, costretti a subire la pena di una febbre che li farà delirare il primo è un empio fellone, mentre il secondo è un vero furfante, mendace, mascalzone, una vera canaglia, insomma. Parenzo è subdolamente laido, mentre Cruciani è laidamente subdolo. Farò un editto che li costringerà ad una dieta di pane ed acqua e quando saranno vecchi gli proibirà l'utilizzo del Viagra. Vabbè, si è fatto un po' di pubblicità, diciamo, no? Si è fatto un po' di pubblicità il signore. Allora, Paolo da Roma, vai Paolo. Sì, buonasera. Dimmi, dimmi Paolo, dimmi. Una considerazione sulle molestie. Una cosa che io non sento mai dalle donne, che invece mi sarebbe piaciuto sentire. Cosa? Cioè, le molestie sono sicuramente un atto deprecabile, però questi signori si permettono di fare molestie, perché guardi, le posso garantire che la maggior parte delle donne sono loro a cercarli. Cioè, ci sono aspiranti, tu dici, sono le donne a cercare i potenti, sì, dici. Certamente, la segretaria è sempre stata amante del proprio capo, però con questo non è che voglio giustificare questi atti, voglio dire che questi potenti, questi registi, si sentono in un certo qual modo autorizzato a provarsi a fare quelle cose. È la tesi, per cui la danno via troppo facile, cioè si offrono in maniera clamorosa, tu dici anche numerosa, ai potenti, no? Sono loro stesse che si offrono. Loro sono abituati a questo tipo di donne, poi quando incappano nella donna, che invece non ci vuole stare, nascono queste storie, però la dobbiamo dire tutta la faccenda, perché la faccenda è questa. Noi da moglie la diciamo tutta, nonostante, perché io le donne io non lo sento mai dire questo, nonostante Luciani. Quello che dice Parenzo, noi diciamo spesso queste cose. Simone da Varese, vai Simone, vai. Ragazzi, siamo alla frutta qua, non senso? È normale che l'uomo sia attratto dal corpo femminile della donna. Che senso? È una cosa incredibile. Ah, quello diceva la Parsi, sì, prima. È incredibile. Qua il normale sta diventando anormale. Sì. È una vergogna. Non so proprio cosa dire. Qua ci vogliono tutti omosessuali, tutti che facciamo le peggiori cose, ma quello che è normale dà fastidio. Questo penso. Ma rivolgiti alla professoressa Parsi o rivolgiti a Parenzo? Professoressa Parsi ha detto... No, ma non c'è nulla da rivolgersi. La professoressa Parsi ha fatto un ragionamento anche psicanalitico molto interessante. Ragazzi, no? Ha detto una puttanata. Ha detto una semplice puttanata. Alla base di tutto c'è una domanda che chiunque, anche questo qui, può capire. Cioè, questo qui che sta telefonando ora. Perché? La questione è questa. Perché lo consideri uno stupido, un questo cretino? Questo qua? No, ho detto questo qua. Come si chiama questo qui? Simone. Benissimo. Questo Simone che ha chiamato, l'ottimo Simone, che contesta la professoressa Parsi. Allora? Ma va benissimo, ormai siamo in un'epoca in cui chiunque può telefonare e dire che i vaccini fanno male, poi chiama un altro minchione che dice che c'entra? Gesù è morto dal freddo, chiama un altro imbecille che invece le donne dice non passano ci sono tempo... le scie chimiche. Ma che va dici? Benissimo, ognuno può dire quello che gli pare, è d'accordo. Però c'è un dato inequivocabile, cioè non esistono donne che stuprano gli uomini. Ma esistono uomini che stuprano le donne, non viceversa. Questo è già il primo dato che è ineludibile, che è lì stampato. Possiamo discutere tutto quello che volete, ma fisicamente, fisiologicamente esistono soltanto uomini che stuprano donne. Non esiste caso al mondo di donne che stuprano uomini. Ci siamo fino a qui o no? Sì, no, perché se no Daniele da Milano, questo è il punto principale. Daniele, dimmi. Daniele. Dai, dimmi, dai. Oh, volevo parlare proprio di Floriana, nel senso che sottoscrivo pienamente. Fiorella, non Floriana, si sente un cazzo, da dove stai chiamando? Sto chiamando da Milano, sono in macchina. Sì, viva voce o cose di questo tipo? Niente, viva sì, voce. Come no, auricolare, cose del niente, genere. Niente, non ce l'ho. Vabbè, allora vai, dimmi. Niente, sottoscrivo pienamente quello che dice Parenzo, anzi raddoppio. Grazie. E lo invito a andare a beccare anche quelli che vanno a scuola con l'Eskimo nelle classi a insegnare. Col libretto di Marx sotto braccio, se ce ne sono, almeno... per carità, no, ragazzi, non dite stronzate. La cosa fondamentale è che per una vita siamo stati, ci hanno riempito la testa di cazzate scritte sui libri di storia di professori militanti. E adesso, in tutte le scuole italiane, professori militanti. Adesso la vecchia c'è storia una dell'egemonia dice... culturale della sinistra. Ma no, la vecchia storia, dove? La realtà, forse è gente che ha studiato di più in generale, ma non è neanche stronzate. Esatto, siccome non è vero. Il luogo comune di prima non è neanche vero il luogo comune che ho detto adesso, quindi sono due luoghi comuni non veri, due stupidaggini. Due luoghi comuni un cazzo, perché io appartengo a una generazione che ha visto il sei politico a scuola, Ma dai ragazzi, cioè, adesso c'è una professoressa, ma sì, ma adesso c'è una professoressa, ma a parte quello c'è una professoressa che semplicemente dice di essere fascista e chi se ne frega, va benissimo, questo la vuole portare, ma quello, punto e basta, dai. Ma non è solo ma questo, che non è che dici parte quelli da dire al dai, mistero, ci sono una marea di ma io non voglio un insegnante che faccia propaganda a scuola, ma non fa nessuna propaganda, non fa nessuna propaganda, come no, non fa nessuna propaganda, e poi se non lo vuole lei, dottor Parenzo, ha detto lei che vuole insegnare, ha detto ma lei le sembra una persona adatta quella lì, ma dal linguaggio che ha usato ad insegnare? Chi lo decide? Ma lei la vorrebbe? A me non sembra, ma lo decideranno gli ispettori. A voi sembra una persona adatta? Ma che vuoi che a voi quella sembra una persona equilibrata? Ma che vuoi fare il test psicologico? È una persona ma che anche c'entra? Certo, se sì, uno lascia i propri figli per altre cose, si agiti per le tasse che ci metteranno. Ma io francamente voglio, quando lascio i miei figli a scuola che hanno tre età diverse, voglio essere sicuro che siano lasciati in buone mani. Ma saranno i cazzi di quelli là che vanno a scuola da lei? Magari non sanno che personaggetto è quell'insegnante. Ma chi se ne frega di quello che lei dice? E lo devono sapere invece. Ma non quello che dico io. Io dico semplicemente che gli ispettori ministeriali spesso vengono mandati per verificare a Mestre. Tempo fa. Ma mica siamo al Minculcop. Ma smetti. Ma è esattamente il contrario, infatti. A Mestre accadde di un professore nazista ed è stato sospeso. È successo a Mestre. Di un professore negazionista. Pazienza niente. Allora, con noi un vero mussoliniano, caro David, un vero mussoliniano, il signor Lele Mora. Ciao Lele, come stai? Ciao ragazzi, è vero, avete detto una cosa intelligente. Sono un vero mussoliniano, non sono fascista, sono mussoliniano. È mussoliniano il signor Mora? Signor Lele Mora mussoliniano, anche se ma cosa fa? Ormai bisogna, è fuori moda, dai. Anche se bisogna dire, caro Lele, che durante il fascismo gli omosessuali venivano triturati abbastanza. Ma io non sono omosessuale, io sono un uomo libero di amare. Beh, un po' omosex sì, sei durante, però, come ti definisci? Non mi ricordavo quando eri venuto con me l'ultima volta. Beh, adesso pure, ma cominciamo ormai stiamo spuntanando tutto. Adesso. Beh, l'ha detto lui, sarà vero, no? Io non mi vergognerei di essere andato con nessuno, figuriamoci, lo direi tra magari. Magari fossi andato con quel figone, con quel, lui proprio il mio. Di mio gusto, sì, posso dirlo. Sì, diciamo che mi lascio soli. Diciamo che Lele dice le stesse cose di molte persone, bisogna dire la verità. Come le cose di molte persone? No, vabbè, senti una cosa, no, cioè lo dici anche di altre persone, non è che lo dici solo di me, cioè, no? Che sono andato con altre persone. No, che vuol dire che hai che ti piacciono altre persone. Un'ammirazione, se una volta mi piaceva Renzi, oggi non mi piace più. Di Maio mi piace ancora, per dirti. Sì, poco. Bene. Ti piace Di Maio, però mi sembra. Sessualmente, chi ti piace oggi? Ma non lo so, ormai mi è morto il pappagallo, tesoro, non mi piace nessuno. Lo so, il pappagallo ti è morto, sì. Ma tu come ti definisci? Come asessuato adesso? Come ti definisci? Ma periodo che non faccio proprio sesso, credimi. No, nel tempo, nella voglia. Sì, ma come tu dici, non sono gay. Che cosa sei allora? Cioè, io non lo so, sono strano, tesoro. Se vuoi che ti dica, mi piacciono gli uomini, posso dire una parola brutta? Sì, sì. Non mi piace la minchia, hai capito? Cioè, ti piacciono gli uomini ma non la minchia? Esatto. Cioè, non ti piace il cazzo, non ho capito. Cioè, sì, bravo, hai detto bene. Ma in che senso? Una volta ti piaceva? Io amo... No, mai. Io ho sempre amato che mi facessero dei grandi bomboloni. Vivo dal paese di Bombolandia. Scusi, cos'è il bombolone? Il pompino, te lo traduco, eccetera. Cioè, non tu... tradurre certe cose. Per carità, hai ragione, è la radio di Confindustria, sì, è vero. È la radio di Confindustria, sono i primi quelli di Confindustria, che sotto la scrivania può darci cosa fanno, adesso, però... certamente succederà. Io penso che noi abbiamo già tanti problemi, non penso che il carico da 90 del professore... Vabbè, l'ha fatto Bill Clinton, Mora. Dai, non è che cambia sì, niente. Ha ragione, da questo punto di vista. Parenzo, non fare il... così il bigotto tu senti lei vuoi dire che non ti hai mai fatto fare un bombolone sotto la scrivania? Sì, dottore, bombolone mangia a pranzo quando faccio bomboloni con Clema buoni scusa ecco però lei ha lanciato una cosa giusta, cioè ha detto ti sei mai fatto fare un bombolone sotto la scrivania? Sì, Davide, no, hai provato questa ebbrezza? Dottore, ma bombolone sfuggito con zucchero a velo sopra? Da chi non ci interessa sapere? Esatto, ma dillo sì o no, te lo sei fatto? Dottore, non può le parlare di porcheria in televisione. Allora radio. Te l'ha fatto fare tante volte. Tu lo sai, Lele, che io non mi ricordo veramente se me lo anche sono... perché non ho scrivanie, questo è il dato vero. Sì, è ma in generale... Vero, non anzi, ho più scrivanie... Scrivania, non ho sotto. Più scrivanie in più luoghi di lavoro, ma ci vado poco in tutti i luoghi di lavoro. Non mi ricordo, quindi... non mi ricordo se mi sono mai fatto fare un bombolone sotto la scrivania. Ma sono problemi, sai, questi... Cioè, non me lo ricordo, ho fatto tante cose in luoghi anche più disparati, ma la scrivania non lo so. Anche al Sole 24 Ore? No, questo non si può dire. Dilla tutta, vecchio maiale. Non si può dire. Adesso la devi dire tutta, altrimenti mando gli ispettori anche a Radio 24. Questo non si può dire. Dilla anche a Sole 24 ore. No, assolutamente no, figurati. Libero due punti. No. Sciocca la zanzara. Cruciani toromba pure al Sole 24 ore. Sì, vedo già il titolo di Libero. Guarda, metto la tua foto. Assolutamente no, smentisco assolutamente queste due illazioni. Ma dove? Dove? Dove? Ma no, smentisco queste due illazioni. Poi lì nella struttura di Renzo Piano. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma mi vuoi sputare così? Ma non è vero. Ma ho capito dove l'hai fatto. Perché lì nella struttura di Renzo Piano, effettivamente, no, c'è quell'area Parenzo vicino all'ufficio di Barisoni. Parenzo, fai il bravo, che tu ti invidia la tua. Ma guarda Lele, che è veramente uno che potrebbe mandarti, potrebbe rovinarti in due secondi, Parenzo. È pazzesco. Senti Lele, allora io voglio capire una cosa. Tu per esempio a proposito di bomboloni, ti sei mai fatto fare qualche bombolone? In cambio di un, che ne so, da qualche tronista o da qualcuno che poi hai piazzato in un programma, eccetera? Sì, naturalmente. No, ma no, come no? Dai, io nella, su. Io nella vita amo, non mi faccio fare i bomboloni così. Ma figurati se non hai utilizzato anche questa cosa qui quando eri molto potente, hai fatto pure queste cose, o no? Non vuoi essere ricattato, non fare cose che ti possono ricattare. Allora oggi puoi fare tutto quello che vuoi, ma senza con chi lavori, è lo stesso, dai. Ma no, con chi lavori, tu hai un sacco di gente che piazzavi nei programmi dal punto di vista, come dire, professionale, no? Possibile da qualcuno di questi qua in vari programmi? No, non hai mai avuto rapporti sessuali con questi? Mai? No. Ne ho avuti con altri, ma non con questi che si lavorano, non me ne frega niente. Gli credo, se lo dice. Ho tanti fidanzati che non ho mai avuto. Figurati, te lo direi, non ho problema di questo genere. No, appunto perché me lo diresti. Se me l'avessi fatto fare, te lo direi, non è mai... Non ho mai fatto. Va bene, senti, io non ho capito una cosa. Come vedi, per esempio, la confessione della Trevisan? Facciamo nomi e cognomi. La Trevisan che dice di Tornatore, che dice che lui l'ha sbattuta contro un muro. Tutte puttanate, dici? Allora, ti dico una cosa vera. Dimmi una cosa vera. Che secondo me, chi non ha più niente da dire, chi non ha più niente da... Sì. Fa un po' di pubblicità. Io dico che è solamente un po' di pubblicità. Anche perché un signore come Tornatore, con tutte le gnocche belle che ci sono passate vicino, non dire che Miriana non fosse bella al suo tempo, la voleva anche quello che ha fatto il postino per fare il postino, hai capito? Troisi, sì. Poi ha preso la cucinotta. Ma però c'è gente, ognuna ha subito violenza, ha subito, l'altra sera mi dice l'avvocatessa Buongiorno da Giletti, sì. Anche se lo pensi, istighi e col pensiero diventa violenza. Ma questa è una puttana. La violenza è un'altra cosa, ma questa è una delle cose più stupide che non si possono dire, dai, non esiste che tu fai violenza pensando di poter portarti a letto una. E il caso Brizzi come lo vedi invece? Il caso Brizzi. Ecco, sì, questo è interessante. Il caso Brizzi, credo che lui, se qualcuno gliel'ha data solo esclusivamente perché voleva fare qualche parte in qualche film, fidati. Cioè tu dici che non esiste al mondo queste qua che vanno a dire che lui si è masturbato davanti a loro, che loro erano terrorizzate, cioè, tu non ci credi al terrore? Ma figurati, non esiste. Guarda, da me ne sono arrivate a migliaia, uomini e donne, erano disposti pur di fare successo, per la televisione, per fare una parte, sono pronti a tutto, ma sono loro che ti istigano a far qualcosa. Cioè sono donne e uomini, naturalmente, in alcuni casi, che istigano il regista o il produttore, il potente a fare qualcosa. Chi ha arte manda la gente a trattare, si fa accompagnare dalla gente a fare i provini, non hai bisogno di andare da sola per corrompere il regista o il produttore. Cioè quelle che vanno da sole alla fine lo vogliono sedurre, dici? Vogliono sedurre. Ma vogliono prendersi una parte. Ma magari poi non lo sanno però che va a finire così, magari c'è qualche anche ingenuità. Ma dove c'è l'ingenuità? Sono più furbi. No, dico una ragazza di 22 anni, magari non ha la gente, non ha la struttura, non è preparata, dice voglio fare il cinema e quindi finisce nelle mani di questi qui. Però tu secondo me hai ragione al fondo, cioè per fare hai ragione, cioè il ragionamento tuo è giusto, se vuoi fare questa cosa qui vai con la gente, ma io ti dico che magari non tutte quelle ragazze avevano la gente o sapevano come no, assolutamente no, e te lo posso, scusa, non è come questa roba qui che sta venendo giù, non è un po' come Vallettopoli, cioè sta peggio, questa è peggio, perché se tu sei stata turbata o turbata, o forse pensavi che qualcuno la volesse. Se vogliono dare a me, dico tientela che non la voglio. È capitato già più di una volta. Ho detto: guarda che hai sbagliato palazzo, vai più avanti, hai capito? E allora, cioè, dici, perché è più pesante di Valletopoli? Ma perché di sì, perché tutti adesso hanno subito violenza, ma se tu subisci violenza vai e denuncia, no? Sì, no, quello è chiaro. Sì, nel periodo di Valletopoli, ti spiego una cosa, ti racconto una cosa, perché questo non funzionava più, un ragazzo con i capelli lunghi, biondo, mi ha denunciato dicendomi che io ho cercato di circuirlo, dicendogli che aveva i capelli, che ha i capelli belli, che gli ho carezzato i capelli, gli ho chiesto di sposarlo, e gli ho chiesto chissà che cosa, e questo poi è andato nella camera da letto degli ospiti a farsi fare delle bombolanghe dalla Patti Lago, Patti da Petinus, hai capito? E cosa c'entravo io con la Petinus? No, nulla, vabbè, questo che vuol dire? Che si possono mettere in mezzo chiunque, si può mettere in mezzo chiunque? No, tra moglie e marito si dice mettiti il travestito, va bene anche quello, hai capito? Ma a me i travestiti non mi piacciono. E chi te piace a te? Chi te piace a te? Non ho capito. A me piacciono i maschi veri, hai capito? Ma i maschi veri, però alla fine non, i maschi veri come fai? Cioè, nel senso, ma è la conquista del cervello di un uomo, la perversione è quella. Fermo là, fermo là, fermo, fermo, fermo là, fermo. Il senso è solo perversione. Adesso torno da te, fermo. E comunque, viva il Pio! La Zanzara. Parenzo, Cruciani, siete due parassiti, andate a lavorare in fabbrica, in fabbrica. Allora, Lele Mora con noi, grande Lele, mussoliniano di ferro, mussoliniano di ferro. Quanti busti hai di Mussolini a casa, ricordiamolo? Sono aumentati una ventina. Venti, Fiano, dove sei? Fiano, no, ma non dove deve essere sei, da nessuna parte, Fiano? Se uno si ritiene a casa propria, vale può tenersi a casa propria. Anche questa ma è propaganda. Non è un problema quello, non è un reato. Potrebbe no, essere casa propaganda propria, no. Se dice alla radio che è mussoliniano nei giornali, in televisione, qualcuno potrebbe alzarsi la mattina, potrebbe alzarsi la mattina e dire: beh, sta facendo propaganda. C'è la volontà di ricostruire il periodo fascista, non il signor Lele Mora ha il gusto di Mussolini, si tenga a casa Mussolini, lo terrà in bagno e glielo aiuterà nelle operazioni. Tornerai a votare Berlusconi, Lele? Mai votato Berlusconi. Mai votato Berlusconi in vita tua? No, mai. Hai visto che intanto gli hanno dato, pare che l'alario gli debba ridare 43 milioni? Cioè hanno speriamo che ne diano anche di più, se li merita. No, ma quelli adesso di più non lo so, 43 milioni li deve dare di quelli che ha già preso, perché hanno cancellato l'assegno di mantenimento 1.400.000. Che ne pensi della signora Lario? Ma che lei ci ha provato a ottenere quello che magari pensava di rispettasse, ma forse erano un po' troppi. Beh, sicuramente. Dai. Un 1.400.000 al mese, ma più, non so, 300 milioni di patrimonio. Senti, ma tu hai detto che ti facevi fare i bomboloni, no? Amavi molto, adesso non più perché non ti tira più, mi sembra di capire, no? Cioè, mi sembra è morto il pappagallo. È morto il pappagallo. Ecco, di quale bombolone in particolare hai nostalgia? Cioè, di quale hai grande nostalgia? Quanto sei curioso. Anzitutto perché uno dovrebbe fare i bomboloni proprio a te. Allora, tutto si fa e non si dice. Si fa, poi si rifà e chi l'ha fatto tace. Sì, ma hai una nostalgia per un bombolone che ti ha fatto qualcuno, per un volto, no? Per un volto quando ti faceva il bombolone. Io sono un signore, non vado a raccontare queste cose. Chi me l'ha fatto, segno che gli faceva piacere farmelo. Oppure hai pagato, perché avrai pagato, diciamo, nella vita si paga sempre, paga quei soldi, paga quei regali, paga con qualcos'altro, paghi sempre, tutto costa nella vita, tutto poi costa, quando è pagato non è più caro, ricordati. Cioè quando è pagato, quando una cosa l'hai pagata non è più cara. Questo è giusto. Comunque, diciamo la verità, tu per il sesso ogni tanto hai pagato. Diciamola tutta. Ho fatto dei gran regali, è diverso. Hai fatto dei gran regali, altrimenti è difficile che qualcuno, adesso per carità, Lele, con tutto l'affetto, le cose, però non è che uno dice: voglio fare un bombolone al signor Lele Mora. Ma no, ma ti spiego una cosa, se tu ti innamori di una persona, io voglio raggiungere l'amore, sono ancora un romantico, allora mi innamoro... Poi sei accontenti delle carenze che può avere una persona che tu ami, ma non è che vai a pagare dai dei soldi, sì, le marchette sono un'altra cosa. Vabbè, ma poi... qualche marchetta l'avrei pure fatta, dai. No, su. Non mi piace andare con le marchette. Non mi piace andare in macelleria a comprare. Cioè, proprio i prostituti, eccetera, non le mai regalato. No. Però dei regali, facevi dei regalini, diciamo. Regaloni, ho fatto, regaloni, quelli li facevo volentieri. Tipo, che regalo, il più grande regalone che hai fatto per un bombolone, qual è stato? Ma... poi posso aver regalato una casa, una macchina, una casa. Sì, beh, ma non per uno solo, hai no, capito? Beh, certo, per una ma sotto c'era dell'effetto amore, non c'era. C'era amore. No. Senti, ma tu voteresti mai Casa Pound? E chi è? Come chi è Casa Pound? Come cos'è Casa Pound? Un movimento il politico. Movimento del signor Di Stefano. Casa Pound, voteresti mai? Non lo so, io sono fuori da questi giri. No, Casa ma Pound. Non hai sentito mai parlare di Casa Pound? Sì, come ma no. Non leggo i giornali, non guardo la televisione. Lavoro e basta in questo periodo. Non hai mai sentito parlare di Iannone e di Stefano? Beh, ma sono ormai due personaggi. Nina Moric. Ma Nina la conosco benissimo. Parte ormai di Casa Pound praticamente. È un volto femminile. Ma vabbè, insomma, tu da Mussoliniano non voteresti mai per questi qua? No. No, vabbè. No. Caro Lele, ti abbraccio. Ciao. Io se voto solo libertà e onestà. Vabbè, per ma questo il mio movimento. Ma tuo movimento, questo... do cazzo vai. Un movimento che non esiste. Vedrai. Di che parliamo? Ci manca solo il movimento di Lele. Vabbè, ciao. Siamo a posto. Ciao. Arrivederci. Ciao. Mi raccomando, non fate spombolare troppo. No, per carità. Allora, Domenico dalla provincia di Roma, vai. Ciao, bello. Dimmi. Niente, no, ho sentito la telefonata di prima con quella signora che parlavate delle puttane. Delle puttane veramente non parlavamo, però comunque dimmi. Beh, comunque non è che parlavate, vabbè, comunque ho sentito nominare. Lei diceva che volte. Una sua parente era una zoccola perché dice una rovina famiglia. No, però ho sentito nominare parecchie volte, ma no, nominare parecchie volte puttana, no? Sì, mi è sembrata una cosa un po' dispregiativa. In che senso? Beh, sì, le puttane che lavorano, che fanno un lavoro, mi sembra... Un lavoro antico, poi tra parentesi. No? Ma infatti io penso che non sia affatto dispregiativo dire puttana a qualcuno, anzi, assolutamente, se dici puttana a una donna, secondo me è un complimento. La signora, sì, la signora chi se ne frega. La signora dipende in che contesto glielo dici, magari. Insomma, adesso ho detto. No? Vabbè, ma cosa vuol dire? Perché sei intervenuto, Domenico? Questo voglio capire. Sono intervenuto perché comunque ho sentito troppe volte questo termine. Fattene una ragione. Vabbè, Giovanni dalla provincia di Padova, dai Giovanni. Ciao. Giovanni, dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto? Senti? Sì, Giovanni, pronto? Dai, forza, dai, amico allora, mio, forza. No, un attimo. Un attimo cosa? La teoria della dottoressa Parsi mi sembra un po' esile. Ti sembra esile? Sì. Un suo precedente, un suo predecessore, 300 anni fa, aveva individuato l'invidia del pene, e cioè quella situazione in cui il soggetto, vedendo che l'altro sesso non è dotato, soggetto maschio, non Giovanni, è dotato quanto devo aspettare prima di mandarti a quel paese? Spiegami. No, non molto, però voglio dirti questo. Quanto Giuseppe, devo aspettare? Dimmi te, quanto voglio devo attendere? Voglio dirti quanto questo, devo attendere? Dimmi. Che i film porno. Sì, quanto devo attendere? I film porno sono, dimmi. I film porno. Si è passato a un altro argomento improvvisamente. Il maschio è attratto. improvvisamente è passato un altro argomento. I film porno. Prima l'invidia del pene. Poi sono i Il maschio e la donna, quando guardano un film porco, sono attratti dal pene, dal pene che eiacula. Sì. E questo tu non come guardi lo ha... Senti, la donna, giusto Giuseppe? Amico mio, io ti mando serenamente tranquillamente a fare in culo. Sì, in quel paese, ciao, certo. Ciao. Edoardo, Roma, vai! Ma quant'è? Ma quello là di prima era un coglione. Ma è evidente che io quando guardo un film porno guardo la donna che fa la zoccola. Cioè, tu quando guardi un film porno vedi la donna che fa la zoccola. E più ce ne sono, meglio è, tra l'altro. Poi se c'è qualche cazzo... Edoardo, sì, no, per carità, poco. Vai, dimmi. Senti, no, io volevo dire una signora prima, una certa Lunella da Pisa, sì, esatto. Lunella, grandissima, simpaticissima. Sì. Però diceva una cosa giusta, cioè la donna... che scopa in giro, amico mio, è una zoccola. Cioè, te non puoi fare. Ma in che senso? Scusa, non ho capito, spiegami. Pronto? Edoardo? Non ho capito bene. Fabio da Torino, abbassato. Fabio da Torino. Anzi, Mario, da, Mario da Parma prima. Mario da Parma. Sì, sono qua. Dimmi, dimmi. Pronto? Dai. Allora, volevo dire, volevo parlare con Parenzi. Gli volevo dare ragione, Parenzo, su tante Parenzo, cose. Sì. Sì. Allora, i profughi che stanno qui in Italia, che ci sono i cattivi, i bruoni, quelli che scopano, quelli che ammazzano e fanno così, vanno integrati con noi. Fatto delle leggi giuste per noi e per loro. Non ho capito, Mario, scusami. Tu adesso ci stai, stai intervenendo dicendo una cosa di cui non ce ne frega nulla. Cosa vuoi dire? Non ho capito, spiegami. Cosa volevo vuoi dire? Volevo dire che questa gente, questi profughi negri vanno, che integra- qui, vanno integrati. Che rubano, allora... fanno bla bla bla. Sì. Vanno integrati, sì. Vanno fatte delle leggi appropriate vabbè, per loro. Benissimo, e tu hai chiamato vabbè. La Zanzara per dire questa stronzata, per dire questa banalità? Cioè, tu hai chiamato, hai chiamato la Zanzara per dire questa puttanata e io, come con l'ascoltatore di prima, serenamente, con una carezza, con una, in modo gentile, eccetera, ti mando a fare in culo. Paolo da Modena. Prego, vai, vai, vai, eliminato anche tu. Adesso in questi giorni sono così. Eliminato, fuori, Paolo da Modena, vai. Giuseppe, ciao, buonasera. Dimmi. Senti, no, volevo dire questo. Per una volta devo dare ragione a David, però, sulla questione della psicologa che ha portato avanti la sua tesi. Tu hai detto che era una puttanata. Invece in realtà... Colossale. No, però invece, secondo me, David, che in effetti legge molto e si vede... E accolto invece l'attenzione su questa questione, perché in realtà non è non è infondata e non è neanche una novità estrema, perché è una tesi che è stata per esempio portata avanti in un bellissimo libro di Moravia di molti anni fa che si chiama La vita interiore. Ragazzi, siamo calmi perché sono le 20:11 e mi stanno cominciando a girare Moravia, i coglioni. Allora, qual è? No, ma guarda che vuole arrivare sì, in un ma punto... va benissimo Paolo, però voglio sapere per l'ennesima volta cosa stracazzo vuoi da noi? Cioè, questo andiamo alla sostanza, Moravia, le cose, cosa vuoi? Dimmi. Lo so, ragazzi, che non sono argomenti. Ma non è che l'argomento, ma che cazzo vuoi? La Parsi ha detto una cosa, che gli uomini sono fissati col corpo delle donne mentre le donne no. È una stronzata. È una stronzata. Gli uomini sono fissati. Gli uomini sono fissati sul corpo. No, ma in quel libro lui ti sta dicendo una cosa, in realtà in quel libro c'è un capitolo che è dedicato alla casa degli appuntamenti. Ma noi che cazzo ce ne racconterà? No, ma lui il protagonista ecco. Rostrato del libro, per esempio, ha un problema di eiaculazione. Vedi. Con la esatto. Sua amante. Allora? Ecco, è azzeccatissimo. E questo problema di eiaculazione, la sua amante lo diagnostica psicologicamente, proprio dicendo, portando avanti questa tesi, dice: tu nella sostanza non riesci a venire a eiaculare come, scusatemi che c'ho il bambino nel frattempo di tre allora, anni certo. che interviene nella discussione. Tu non riesci a raggiungere l'orgasmo perché nella sostanza tutte le volte che facciamo sesso, portiamo avanti il rapporto sessuale, tu hai un ancestrale d'inconscio desiderio di rientrare nel ventre materno. Esatto. E quindi è perfetto il paragone. Moravia, la vita interiore, bravo. Sì, ma scusami, ma noi che ce ne frega di questa la roba? La casa qua? Di appuntamenti. Ma che ce ne frega a noi? No, ma ti citavo un libro di Moravia. Chi 78, se ne frega, così ma... questi somari che parlano criticando la Parsi se avessero la voglia nulla, di rileggersi questo romanzo bravo, forse esatto. meno noto di Moravia ma sicuramente sì, interessante Antonino dalla provincia di Caltanissetta bravi vi siete fatti la lezioncina bravi applausi no, applausi. Ma parla di eiaculazione applausi, di tutte applausi. Queste cose qua Antonino Moravia, provincia di Camama due coglioni ragazzi Antonino provincia di Caltanissetta no, dice dai. Le stesse cose che dice il camionista in realtà vai forza avanti dette in modo più elegante dimmi Antonino dimmi. Dottore Cruciani, buonasera. Dottore Prezzo, buonasera. Buonasera. Sembra Sandro Ciotti questo. Buonasera. Dimmi, Antonio, mi sente? Sì. Vai. Forte e chiaro, Siamo in diretta. Guardi, siamo in diretta. Sì. In diretta, sì, su Radio 24. Sì, dica. Ah, perfetto. Per quanto riguarda la discussione che poi stavate parlando prima, ho soltanto, sto imbevendo perché c'ho un caso che un pochettino mi ha sconvolto la situazione. Cioè? Ma soprattutto volevo dire una cosa anche della signora di prima. Lei, Cruciani, ha ragione. La signora scopa poco. E può darsi quello che una cosa in più. E qual è la una cosa in più? Qual è la cosa in più? Suo marito non gliela sa dare, secondo me. La minchia, dici, no? Quello che sta per essere, a noi non ci interessa. Vabbè, ma questo può darsi che sia così, eccetera. Lei sulla base di che cosa fa questa considerazione? Quando riguarda questo chieto, come minchia si chiama, io sono d'accordo con lui, perché non è possibile che qua si sveglia una dopo 10 anni, gli dice, ho fatto un bambino qua e ora voglio 100.000 euro. Non è possibile questa cosa. Poi? Cosa vuoi dire dopo? Comunque, la situazione mia è un pochettino drastica. Io ho la mia compagna, suo cugino, che mi fa le avanze. Chi hai? Tu là? Si è permesso. Chi hai? Mi fa le avanze, è gay. Ma poveretto. Chi? Il cugino della mia compagna. Sì, e noi perché dovremmo credere che il cugino della tua compagna ti fa delle avanze? Perché... fa le avanze, è gay. Allora, praticamente, mi trovo in una situazione un pochettino compromessa. Perché se glielo dico, succede che sono a casa. Se noi, se... è una situazione molto, come dire... Cioè, non ho capito, il cugino gay della tua compagna ti fa delle avance? Ah, mi fa delle avance e non so come fargli capire che proprio si deve allontanare. Sono allora, problemi questi, cioè, è una cosa da allora, gestire. Se lo dico alla mia compagna succede l'inferno. Ma sì, ma già glielo stai dicendo, posto l'acqua. Che sia vero, già glielo stai dicendo perché stai parlando alla radio e gli stai dicendo alla tua compagna sostanzialmente perché lei non ascolta la trasmissione, non ascolta... Completamente. Lei neanche conosce Radio 24, non sa neanche cos'è Radio 24. Ho capito, male. Ma, molto male. Questo molto male, però magari qualcuno adesso glielo dirà. Cioè, il cugino della tua compagna è omosessuale. Ma noi da questo punto di vista di spiritudine che ci interessa questa discussione? Perché dobbiamo dirottare la discussione su questo binario, non ci interessa. Era un intervento che volevo sottoporre alla vostra attenzione. Qual e poi parliamo sempre di figa, difendiamo la figa, tutto questo bordello, anche no, che laddove a volte nei gay avvenga una situazione veramente drastica. Ma di che parla? Okay. Questo è un coglione. Perciò, è un fake, fake totale, dai. Ciao, ciao. Sì, ciao, ciao, ciao, ciao. La zanzara. Giuseppe, vorrei che parlassi di questo annoso problema che affligge tutti noi. Le escort che mettono le foto false sugli annunci, scrivendo 100% foto vere. Poi arrivi lì e ti trovi delle cesse. E che cazzo! La zanzara. Caro Parenzo e caro Cruciano, cerca di far diventare questa una vera zanzara. Se no a questa zanzara lo sai cosa facciamo? Prendiamo il DDT e l'ammazziamo. E l'ammazziamo! Lo dovevo fare! Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Amore, la prossima volta che facciamo l'amore mi mettere il dito in culo. Oh Cruciani, ma non scherziamo, io vado pazzo per le piccole labbra che escono fuori. È un'orchidea bellissima, mamma mia, che visione! David, vieni al Festival Fruttariano, per così ti do l'omoloni. Ibrido! Poldrini, Poldrini! Miserabili! Allora andiamo con Franco da Napoli, vai Franco, vai. Buonasera Don Peppino, buonasera. Dimmi, da dimmi, Napoli. Dimmi, dimmi. Caro, io volevo intervenire un po' come censore di Parenzo, perché pensavo che fosse di una religione fondamentale, importante. Io se fossi un padre spirituale, non so come vengono definiti i suoi padri spirituali, semmai intervenirei proprio per radiarlo, se è possibile, dalla sua religione, perché, ascolta, argomenti... Come si chiama, professore? Scusi, non radiarlo, no, accade, ci si può, lei può chiedere la mia radiazione dall'albo dei giornalisti, allora, però allora, rispetto alla comunità ebraica non può chiedere la radiazione. Ecco, no, come si chiama? Non lo so, sono ignorante. No, guardi, può chiedere al tribunale rabbinico. Cacciato, esatto, sì, accade una volta sola per un cacciato, signore che si chiama Spinoza, solo per Spinoza cacciare. Accade. Noi lo dobbiamo cacciare perché aderisce a un programma volgare, illecito. Sì, sì. Pieno di insulti, insulso accanto a un Cruciani, e lei sta aderendo alla sua linea. niente più, niente meno. Non ho capito bene, tu hai fatto questa telefonata semplicemente per dire che Parenzo dovrebbe essere radiato non so da cosa perché fa questo programma, dici, no? Perché effettivamente aderisce al tuo volgarismo. Certo, perché guarda, parli solo di sesso, solo il sesso è contro i napoletani. Ma i napoletani non troppo. Non provi nessuna simpatia, questo è risaputo. Ma non è vero, ma assolutamente no. Parli sempre di sesso, violentare, questo, quello. Ma violentare tu ne parli, io non ho mai parlato di questo. Scusa, però, chiedo scusa. Chiedo scusa. Non avete altri argomenti, ma parlate di cose più importanti. No, dacci una mano anche tu. No, ma una notizia che abbiamo sottovalutato oggi è in realtà il signor Ingroia che fa un partito con Giulietto Chiesa. E da mo che l'hai scoperto adesso. No, ho capito, ma oggi hanno annunciato. Ma l'hai scoperto adesso? È una sinistra che scoperto, si comporta sempre. Ma oggi ha fatto la conferenza stampa e quindi mi ha colpito. Chi se ne frega. Ingroia e Giulietto Chiesa. E vabbè. Giulietto Chiesa. Si stanno preparando queste faccioncine a ritornare ad avere consenso elettorale. Ma adesso, ma che cazzo ce ne frega di quello che pensi tu? Non ho capito. Io ti ho detto prima. Per me sei volgare. Tu sei un volgare. Sì, non so come anche ogni tanto tua è vero. Moglie, i tuoi figli, come non ce l'ho, ancora ti ascoltano. No, mia figlia non mi ascolta, non ti preoccupare. Immaginavo. Poi non ritenerti così bello affascinante perché non lo sei. Io ti guardo. Ma chi se ne frega, non mi interessa il tuo parere. Sei più un depravato, insomma. Sì, ma il tuo parere non mi interessa. Almeno a me, guarda. Ma allora perché lo dici? Scusa. Io mi diverto con voi. E perché lo dici allora? Non ho capito. Mi diverto. Questa è la mia gioia, la mia soddisfazione. Come tu ti diverti con i napoletani, mi diverto con te. Ti stai divertendo così in maniera. Ma io dicevo religiosamente i suoi di Parenzo dovrebbero veramente richiamarlo all'ordine. Ma tutti ma infatti lo fanno ogni dovrebbe tanto. Essere allontanato. Ogni tanto lo fanno, non ti preoccupare, povero cretino. Dovrebbero dissentire dal tuo pensiero, dovrebbero farlo dissentire. Va bene, ciao deficiente, ciao. Ciao, imbecille. Oggi i tuoi amici di Casa Pound, caro David, amici di Casa Pound, diciamo, possono essere degli interlocutori interessanti. Allora, in special modo Forza Nuova. Questi tuoi amici di Casa Pound hanno in funzione anti Forza Nuova. Si possono essere interlocutori comunque, se cambiano un po' di cose. Questi di Casa Pound che cosa hanno fatto? Di Stefano, uno dei leader, ha fatto un'intervista in cui ha detto: siamo fascisti, ma ci piace Putin, le leggi razziali sono state un errore, c'erano tanti ebrei in camicia nera, dice non siamo xenofobi, un'intervista un po' paracula, diciamo la verità, sono a favore dell'aborto, dell'eutanasia, dice anche che sono eredi della Repubblica Sociale, italiana, sono come eredi del movimento, esatto, sono eredi del movimento sociale italiano, e questa intervista ha fatto incazzare il nostro amico partigiano. Pronto? Sì, buonasera. Casa Pound? Chi parla? Io mi chiamo Cosimo. Sono un partigiano dell'associazione Partigiani e ho letto quest'oggi su vari giornali le parole del vostro boss e dice che siete orgogliosi di essere eredi della Repubblica di Salò. E a lei chi l'ha detto che io faccio parte di questa cosa? Voi siete eredi di quella schifezza che si chiamò fascismo. Voi quanta gente avete ucciso? Ah, ecco che viene fuori il fascistello. Ne avete trucidati milioni. Voi invece? Il bello è che vi vantate di essere gli eredi del fascismo. Che schifo. Chissà quanti ne ha uccisi lei con le sue mani, vero? Io sento la puzza di morte proprio. Lavorate. Non ci facciamo mantenere come voi dallo Stato. Noi con ci le sovvenzioni. Con l'associazione Partigiani che prende sovvenzioni da una vita. Campa sulle spalle della povera gente. Voi invece cosa fate? Quanta gente ha combattuto realmente? Quanti invece si fanno sovvenzionare e si sono iscritti all'AMPI solamente per farsi i comodi loro? Fetido regime mussoliniano e voi ve ne vantate, noi siamo gli eredi. Noi siamo gli eredi del fascismo, non del regime mussoliniano come sta dicendo lei. Ancora peggio, eredi del fascismo, ma non ti vergogni ragazzo mio a dire queste cose. La Gerzichi l'ha violentata e l'ha uccisa. Ah, ma questo è il vostro mantra. Chi è che deve tornare nelle fogne? Ah, voi fascisti? Lo dirò magari al mio capo. Bene, diglielo. Gli dico che il partigiano... Sì, Cosimo. Scrivi. Cosimo Falcetti Martelli, scrivilo. Sì. Diglielo. Falcetti... Martelli. Ecco, e digli di tornare tranquillamente nelle fogne con tutti gli altri fascisti. Tornare... Nelle fogne, fascisti. Nelle fogne, fascisti. Bene. Pronto? Pronto? Parlo con Casa Pound. Sì. Dovreste vergognarvi. Siete eredi del fetido regime musulmano. Dovrebbe vergognare lei, visto quello che avete fatto. Cosa avremmo fatto, secondo lei? Ammazzare, diventare una bambina, penso che sia il lato più vile di essere fascista. Ma non vi vergognate. Si dovrebbe vergognare lei. Fascisti, carogne, tornate nelle fogne. Infami. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Hey! Hey! Italia! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hai capito, mi dai? Italia! Hey! Capito, mi dai? Italia! Oh! Italia! Svegliati! Oh! Hai capito, mi dai? Collato! Collato, Italia! Forte! Forza! Collato! Italia! Oh! Svegliati! Oh! Hai capito, mi dai? Italia! Oh! Italia! Oh no! Mia bocca giù da bocca miseria, oh svegliati ragazzi, Italia sveglia, bocca puttana, ci vediamo, oh ciao. Cioè Cruciani, vorrei dire che il capezzolo è la base, cioè se non si parte da lì, da dove cazzo si parte? Cioè anche nella fase di training, quando sei in macchina le prime volte, da dove parti? La prima scoperta è lì, e saperlo attivare è la base. Per la serie Tipi da Zanzara sentiremo tra poco, caro Parenzo, uno scontro mitologico. Anna da Napoli contro Lores, vai! Tipi da Zanzara. Anna, provincia di Napoli, vai. Sì, un po' di selezione. Io ho chiamato per fare un'osservazione. Vorrei dare un messaggio a quella signora del nord. Da quella quale? Signora che dice quale? Sempre merda. Chi? È di Verona? Allora. Ma chi? Chi è? Ma chi è? Perché è un elemento insignificante che a forza di dire merda ha il cervello offuscato dalla merda proprio. Due punti. Fatti una scopata. Perché la cara signora ha un temperamento frustrato. Ma è frustrata, dici tu? Sì, che, perché sicuramente non perché non scopa, dici ma tu? Ma sì, sono le frustrate che hanno vissuto e se lo ricordano ancora. E quindi non trovano un vecchietto, poverine, che le consigli di venire a sud perché le servirà più presto un superdotato. Incredibile chi chiama qua. Le do un consiglio a questa signora di venire al sud per cercarsi un super dotata più presto, perché le serve proprio una cura, una terapia mattina, mezzogiorno e sera. Le serve un personaggio super dotato, così le passa sicuramente la frustrazione. Questa è una terapia giusta. Anche incredibile. È una cara signora frustrata che se lo ricorda ancora e ha tanta voglia, quindi perciò è frustrata. Il fatto stesso di chiamarci noi al sud sempre merde, ladri. Aspetta un secondo. A questo punto interviene anche Lores. Vai a cagare, Cruciani. No, rispondi a questa Anna. Cruciani. Sta sempre con la metà merda. Smettila, lurida, frustrata. Mi lasci parlare, però. Vai, rispondi ad Anna, vai. No, scontro tra cervelli di altissimo livello. Non ho bisogno di nessun cazzo, terrore. Vabbè, questo qui ce ne sono ai bello, e vanno benissimo. Mamma tutte, mia. No? Quella carogna, digli che loro hanno le pensioni finte, truffate. Sono tutti in banca, ma vai a lavorare, che sei ora, va a lavorare. 50 anni come me, porra cretina, ho la pensione perché ho lavorato una vita. Meraviglia. Imbecille, che mostri. Avevo 5 anni e sentivo la cassa del mezzogiorno, cazzo, e ancora che mandemo Zoskei, 90% musica dei per invalidi. Cortesia, musica, musica, musica. Buonasera, buonasera, benvenuti al pubblico di Porta a Porta. Da una parte abbiamo la signora Lores da Vicenza che difende i valori del nord e dall'altra la signora che difende i valori del sud. Anche questo è servizio pubblico. Prego, Lores. Allora, argomenti. E se vuoi te lo ricordo ancora. Vespa. Beh, forse questo è un po'. Forse questo è un attimo eccessivo, dovremmo un attimo riportare al centro la discussione. Andiamo allora al sud a capire le ragioni del sud. Noi del sud abbiamo fatto parte del regno delle due Sicilie, abbiamo una grande questa storia è più porta a porta, culturale, sì. Bene, bene, bene, storico, non siamo su Rai Storia, signora, però mi perdoni, siamo a Porta a Porta in seconda serata. Fermi, come dice, scusi, fermi, signora. Fermi. Tipi da Zanzara. Anna da Napoli contro Lores. Mamma mia. Che campionario umano incredibile. Che campionario umano incredibile. Ismail da Milano. Ismail. Ismail, vai. Oh. Ismail. Muslim. Ismail. Ma perché è Muslim? Muslim. Ismail, dimmi. Ti ho detto che ce l'ho con te perché vedo che tu fai il giornalismo dell'ignoranza proprio. No, no, ho capito, Ismail, fatti capire bene perché prima non si sentiva niente. Vai, dimmi, alza la voce, alza la voce, Muslim, vai. Va bene, sto urlando, Cruciani, sto dimmi, urlando. Dimmi. Allora? Io ti ho detto che tu sei un giornalista ignorante perché sì, stai facendo sì, una trasmissione sulla radio, sì, non stai parlando di niente di culto, sì, parliamo spesso spesso del ma nulla, parli, sì, ma parli solo di sexy shop e basta, vai ma a lavorare sexy shop. Sexy shop meglio, ma che c'entra sexy shop, parli di figa, di cazzo, di vibratore, di tutto, no? C'è ragione. Ma qual è il tuo problema, scusa, non ho capito, no? Il mio problema è che il livello di giornalismo qua in Italia il sta livello di troppo. Il livello di giornalismo è troppo basso in Italia, troppo sì, basso il livello di giornalismo. Tu con queste robe che stai facendo, l'hai bastato tu, perché tu non stai facendo, ma anche tu dici, non stai dando neanche informazione, no, alle persone, per carità, assolutamente che no, tu parli di religione, sì, che tu stai tanto, ecco, ignorante, ma appunto, ma tutte le religioni, sì, compreso il cristianesimo. Sì, cristianesimo, non lo sai neanche, certo, e sì, parli di religione. Scusami, devi prima studiare, sì, devi studiare prima sempre, informarti bene. Non c'è dubbio. E scusa, parli di Ismail, Islam. Ismail, ma sì, tu sei convinto che Islam è religione di Bash, per esempio? Sei convinto? Sì, è una religione di pace. Di ma Bash, infatti, certo, è religione sì, di Bash. Sì, ma anche il giudaismo è una religione di pace. Anche il cristianesimo è una religione di bravo, pace. Il no, problema siamo noi gli esseri è umani, una religione siamo di Bash, di Bash, siamo noi, certo, siamo noi gente cattiva. Come si chiama? Come si fa? Come si fa è quando la gente sì, che ma non c'è pronta, la gente che è cattiva, come si fa quando si prega Allahu Akbar? Dimmelo bene, forte. Sì, ma sì, no, ma dimmelo posso bene forte, no, dimmelo bene forte, amico mio. Sì, dimmelo. Allahu Akbar significa Dio no, è grande. Com'è che lo dici quando non preghi? Non è che stai dicendo qualche novità. No, assolutamente, non ma stai dicendo no, ma mi piace sentirlo, Ismail, mi piace sentire. Tutti lo sanno, tutti lo sanno. Come si dice forte? Allahu Akbar. Si dice Allahu Akbar, non bello, è bello, una cosa proprio che dici Dio è grande, non stai dicendo qualcosa Dio è grande. Ciao Ismail, sì, ciao, ciao, ciao, mio, ciao, ciao, ciao. Allora, è l'ora, caro Parenzo, dei sessuologi, sì, come al solito. C'è l'ora degli esperti in questa materia. Sì. Abbiamo con noi una persona. Perché sei rassegnato? Non ho capito. No, sono rassegnato no, alla trattazione di questi argomenti. Guarda, va benissimo. Questa persona che ti sto presentando è una persona sì, molto, molto importante. Una persona bene, che ha una grande professionalità, è una psicologa, ottimo, una sessuologa di Torino che si chiama Monica Cappello, che saluto. Buonasera. Benissimo. Buonasera, buonasera, cara. Buonasera, ciao Cappello. Allora, buonasera, io leggo da qualche parte buonasera, che esiste, e c'erano tre questioni che volevo affrontare molto rapidamente. Sì, tre. La prima bene, è questa. È vero o no che si può raggiungere, questo è dedicato soprattutto alle donne che ci stanno ascoltando, moltissime donne, è vero che si può, anche agli uomini ovviamente, è vero che si può raggiungere l'orgasmo anche grazie al capezzolo? Ecco, questo mi sembrava ah, un ecco, tema interessante, tema lasciato sì, in sospeso, sì o no secondo lei? Ma allora l'orgasmo tramite la stimolazione del capezzolo, comunque dell'areola sì, mammaria, del seno diciamo in generale sì, è sicuramente bella molto questa cosa, importante, l'aureola mammaria del sì, seno, è un medico, è importantissimo, è un termine, è un termine tecnico. Certo, assolutamente. Diciamo che è sicuramente un aiuto fondamentale per aumentare l'eccitazione e quindi favorire il raggiungimento dell'orgasmo. Certo. Non è, diciamo, scientificamente provato al 100%, nel senso che magari può essere capitato in una piccola percentuale di donne, sì, l'orgasmo tramite la sola stimolazione del capezzolo. Cioè può capitare, dire, però non è escluso che possa capitare, sì, oppure per lei non però, è... Secondo lei no? Io conosco ora proprio forse qualche caso in tanti anni di lavoro, ecco, nel senso qualche caso, cioè, ma a chi succede? A chi succede? Si deve sentire come? Perché una persona mi ha scritto: io riesco ad arrivare all'orgasmo, però mi sento un po' un'aliena, ecco, mi sento un po' bizzarra, cioè, e la vivono come una sorta di, no, di situazione psicologica un po' drammatica, non dico problema, drammatica, forse, o no, come un problema. È un po' no, diversa dagli altri, probabilmente si sente questa ragazza, questa signora, certo, esatto, perché ovviamente è una cosa un po' particolare, però non è da tutti, quindi vuol dire che riesce a raggiungere un livello di eccitazione molto alto anche solo con la stimolazione di una zona erogena secondaria, nel senso che non è ovviamente la vagina, ecco, no? L'uomo deve essere naturalmente abile a far raggiungere lì, e ci vuole un po' un'arte da quel punto di vista, no? Sì, sicuramente anche il discorso anche di movimento non della c'è lingua, non c'è tutto. Allora, certo, seconda sì, cosa, ci scrivono molte persone che una persona che mi ha detto, per esempio, io sono multiorgasmica, la cosa un po' mi mette un po' a disagio, ecco, essere, sì, multiorgasmica, cos'è un problema essere multiorgasmici? Per la donna, sempre. Per la donna, sì, sempre per la donna, sì. Allora, l'orgasmo multiplo, sì, anche questo è un argomento un po' particolare, nel senso che solitamente, sì, le donne, e una percentuale alta di donne, sì, circa il 70%, ha, sì, difficoltà nel raggiungimento dell'orgasmo durante la penetrazione. Attenzione, questo, sì, è importante. I dati sono, ecco, sempre importanti, Parenzo, da noi. I dati, siamo Confindustria, imprenditori, eccetera, eccetera. Certo, i dati sono numeri, scienza, il, certo, 70% delle donne ha difficoltà, sì, a raggiungere l'orgasmo con la penetrazione. Beh, sì, ancorare la discussione a dati, molto bene, certo, grazie. Dunque, sì, no, tra, certo, l'altro, tra l'altro feci io nel 2004 una ricerca proprio su questo argomento, quindi ho scritto proprio un, sì, piccolo libercolo, un papiello, diciamo, un papiello, una trentina di pagine su questo argomento, quindi so bene, diciamo, di allora, questo 70% argomento. 70% difficoltà, dunque? Sì, e quindi praticamente cosa succede? Che effettivamente, appunto, già è difficile che le donne raggiungano l'orgasmo, sì, effettivamente con la simulazione solo, tra virgolette, del movimento del pene, intendo, no? Sì, quindi senza, sì, l'aiuto del clitoride. L'orgasmo multiplo, appunto, è un po' una cosa rara, non dico irraggiungibile, sì, ma anche in questo caso rara. Sì, cioè, difficile. Una donna che è multiorgasma si deve è sentire... È un po' come chiedere alla Lores di dire una cosa intelligente in un anno. È lei non conosce la signora Lores, però no, comunque però considerata conosce, da Parenzo, quindi, particolarmente stupida da Parenzo. Io toglierei particolarmente. Però scusi, dottoressa, clamorosamente stupida. Allora, lei mi sta dicendo che chi è una donna multiorgasmica deve essere contenta, diciamo, da un certo punto di vista, perché perché essendo il 70%, cosa... essendo il 70% di donne che non riescono con la penetrazione, certo, viva le donne, multiorgasmiche da questo punto di vista, no? Sì, cioè, per l'uomo fa anche meno fatica, o sbaglio? Ma diciamo che sicuramente queste donne hanno, diciamo, sono aiutate, tra virgolette, da una persona che ha una buona capacità di durare, no, nel rapporto, perché ovvio non potrebbe succedere se l'uomo soffrisse di eiaculazione precoce, perché non c'è, non avrebbe dubbio, magari neanche però, il tempo. Però l'uomo non deve fare grande fatica, ecco. Cioè, no, sicuramente, perché sicuramente sono donne che si lasciano molto andare. Dunque, no, care donne che siete multiorgasmiche, non vi preoccupate, è un vantaggio rispetto alle altre donne che è, hanno non problemi. È da vedere un po' come un problema, certo. Benissimo, no, allora, no? Terza cosa fondamentale, sì, caro Parenzo, ed è questa. Ecco, lei che è una sessuologa, una psicologa, eccetera, come vede la questione pelo o non pelo? Gliela metto in maniera brutale, cioè, com'è, sì, la tendenza adesso? Cioè, quella della rasatura, oppure della rasatura dell'aiola, come diceva Grignani, mm-hmm, una volta, oppure della crescita, della ricrescita? Ecco, sessualmente, come la si mette? Ma sicuramente rispetto agli anni 70-80 c'è stato un cambiamento, no? Perché in quegli non anni c'è dubbio, lì, non c'è dubbio, insomma, si lasciavano, si vedeva anche da dai film porno che si usavano in quel periodo lì, erano comunque con i peli, non li toglievano, sì, negli uomini. Lei guarda donne film porno ogni tanto? Ma io diciamo che istruisco anche, come dire, i miei pazienti a guardare comunque dei filmati pornografici. Questo perché è aiutano buono. L'immaginario, certo. Capito Parenzo, sì, aiutano sì, l'immaginario. Lei ai suoi sì, clienti sì, dice certo. Cibatevi di film porno, cibatevi sì, di non film... troppo però, come spiego, no, perché non deve diventare una porno dipendenza. Quindi vabbè, il film deve essere visto una volta ogni tanto, una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni. Poi ognuno, ma non tutti i giorni, perché diventa una dipendenza, no? Vabbè, allora, insomma, il pelo e non pelo, come... sì, diciamo che negli ultimi anni è tornato di moda o no? Donne, questo è la domanda. No, non tanto. Non è tornato di moda. Le donne tendono un pochino drammatica. Più a dire sì, sì, io anche quando chiedono i colloqui, no, l'aspetto fisico, eccetera, loro dicono comunque che no, no, mi piace rasarla, mi piace insomma. Che dramma, che dramma, che dramma. Che dramma. Di massimo è così. Che dramma. Grazie, sì, sì. Grazie dottoressa. Bene, grazie, a presto. Grazie. Voi, grazie. A un nuovo serata. Capitolo nelle prossime certo, settimane. Ci nuovi capitoli. Arrivederci. Ma ci mancherebbe. Grazie, cara. Beh, amici miei, che notizia drammatica che ci è arrivata da questa dottoressa Monica Cappello, sessuologa, psicologa, non è tornato di moda. Mi dispiace, Karma? Karma, mi dispiace moltissimo. Onore al karma. Fatemi sentire quello che dice un ascoltatore. Onore al karma. Onore al karma. Onore al karma. Onore al karma. Onore al karma. Davis, Davis, provincia di Chieti, vai Davis. Pronto? Dimmi, Davis. Dimmi, dimmi. Ciao Lorenzo. Dimmi, dimmi. Ciao caro. Ciao caro. Ti posso dare il tu? Assolutamente. Tu, Allora? Tanto siamo così coetanei, allora? Parenzo e me. Allora, io volevo dire che praticamente non è vero che le donne non molestino, se no. Perché io ho letto una storia da una professoressa americana che praticamente che al suo alunno minorenne mi ha detto non ti faccio uscire dall'aula se non me la lecchi. Vabbè, ho capito ragazzi, però ci sono moltissimi... E infatti è, un infatti è esattamente no. Un caso, no? È ragazzi, come, il è come più, l'uomo più che morde il cane, ma no? Ma pochi casi, pochi casi. È l'uomo che morde il cane. Candida, Candida, di molestie. Candida, ci sei? Sì. Candida? Sì, ci sono, ci sono. Quanti anni hai? Chi è Candida? Quanti anni hai? 22. Con chi stai? Chi con, è un... con chi stai? Come? Con chi da stai? Sola. No, da ma sola. Con chi stai? Sei fidanzata? Sì, sì, sono fidanzata. Con uno che ha? Con un gran gnocco di 45 anni. 45 anni. Squirti? Sì. Squirti? Sì. Ma chi è ogni signora? Volta. Squirti tanto. Ogni volta, ogni volta. Testimonianza di Candida verrà rimandata domani per la gioia di molti ascoltatori. Ciao, ciao, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. E comunque viva il Pio!